foglie che il vento raccoglie portandole a te. In ogni foglia gialla che t'accarezza c'è tanta tristezza che parla per me. Come il mio pianto d'amore la pioggia vien giù, sembra che porti il dolore che c'è nel mio cuore. L'autunno fa cadere vento raccoglie per te. Vien giù, sembra che porti